L'indomani Anania cominciò a far le visite di congedo. Andò dal direttore del ginnasio, da un canonico amico di zia Tatana, dal medico, dal deputato ed infine dal sarto, dal pasticcere e dal calzolaio Francisco Carchide, il bel giovinotto che un tempo frequentava il mulino. Ora il Carchide aveva fatto fortuna, non si sapeva né come né perché. Possedeva una bella bottega con 5 o 6 lavoranti, vestiva in borghese, parlava affettato e si permetteva di fare il galante con le signorine che serviva. Addio, disse Anania entrando nella bottega. Posdomani parto per Cagliari. Desideri qualche cosa? Sì, rispose uno dei giovani sollevando il volto sorridente. Mandagli un anello col diamante, perché egli deve sposarsi con la figlia del sindaco. E perché no? Esclamò boriosamente il Carchide. Accomodati dunque. Ma Anania, disgustato per lo scherzo che gli pareva un'ingiuria a Margherita, si accomiatò subito. Uscendo, incontrò sulla porta il giovinetto che la voce pubblica diceva figlio del Carboni, un ragazzo molto alto per la sua età, un po' curvo, pallido, con le mascelle sporgenti e gli occhi tristi e cerchiati, azzurri come quelli di Margherita. Addio, Antonino, salutò lo studente, mentre l'altro lo guardava con un baleno d'odio nelle pupille melanconiche. Rientrato a casa, Anania riferì ogni cosa a zia Tatana, mentre la donna, seduta davanti a un braciere, preparava un dolce di scorze d'arancio, mandorle e miele da portare in regalo ad un importante personaggio cagliaritano. Sentite, disse Anania, il vostro canonico mi ha regalato uno scudo e 2 lire il medico. Io non volevo. Ah, cattivo figliuolo, è uso questo di regalare denari agli studenti che partono la prima volta. Osservò la donna, rimuovendo e rimescolando delicatamente con 2 forchette i sottili fili della scorza d'arancio entro la lucida casseruola di stagno. Un acuto odore di miele bollente profumava la cucina tranquilla. Qua e là facevano capolino i piccoli cestini gialli colmi di provviste per lo studente. Anania sedette presso la donna, prese il gatto sulle ginocchia e cominciò ad accarezzarlo. Dove sarò tra 8 giorni? Chiese pensieroso. Sta fermo, mussito, giù la coda. Il vostro canonico mi ha fatto una lunga predica. E ti consigliò di confessarti e comunicarti prima di partire? Ciò si faceva 20 anni fa, quando si partiva a cavallo per Cagliari e si impiegavano 3 giorni per arrivarci. Adesso non si usa più, rispose maliziosamente Anania. Cattivo figliuolo, tu non credi più in Dio. Col cuore sì. Queste parole consolarono alquanto la buona donna che gli narrò l'episodio biblico di Elì. Dopo gli chiese: "Dove dunque sei stato?" Egli ricominciò a narrare. Il gattino gli si era arrampicato sulle spalle e gli leccava le orecchie, dandogli un solletico strano che lo faceva, egli non sapeva perché, pensare a Margherita. Mentre raccontava il volgare scherzo del Carchide, entrò Nanna, che zia Tatana aveva mandata a comprare droghe e confetti per ornare il dolce. Ella puzzava di vino, aveva le sottane lacere, in modo che le si scorgevano le gambe legnose e violacee, ed era ributtante più del solito. «Ecco qui», disse, estraendo dal seno i pacchettini delle droghe e fermandosi ad ascoltare i discorsi di Anania. «Hai sentito?» esclamò ingenuamente zia Tatana. «Quell'immondezza di Francisco Carchide vuole sposare Margherita Carboni». «Non è così», disse Anania irritato. «Non capite niente». «Sì», disse Nanna, io lo so, egli è pazzo. Ha chiesto la mano delle figlie del medico, voleva o l'uno o l'altra. L'hanno cacciato via col manico della scopa. Ora vuole Margheritina perché prendendole la misura delle scarpine le ha stretto il piede. Doveva dargli un calcio! Gridò Anania balzando in piedi col gattino intorno al collo. Un calcio sul viso! Nanna lo guardò. I suoi piccoli occhi rifulgevano stranamente. Ecco, disse, svolgendo i pacchettini con le mani tremolanti. È quel che dissi io. E poi c'è anche un militare, un ufficiale o un generale, non so, che vuole sposare Margherita, ma io dissi no. Ella è una rosa e deve sposare un garofano, freschi entrambi. Prendine dunque uno, s'avvicinò ad Anania porgendogli i confetti, ma egli balzò indietro gridando: Pozzate come una botte, lontana da me. Nanna traballò, qualche confetto cadde e rotolò sul pavimento. Il garofano mio, disse ella carezzevole nonostante le cattive parole di Anania. Sei tu il garofano di Margherita. Tu dunque parti? Va, studia, diventa dottore. Anania si curvò, raccolse i confetti, poi rise e disse tutto felice: Mi raccatteranno così le ragazze, non è vero? E e si mise a ballare col gattino fra le braccia, ma d'improvviso ridiventò cupo. Chi era il militare che voleva sposar Margherita? Forse quel capitano dal collo rosso che a teatro gli aveva detto con disprezzo: «La finisca dunque!» Improvvisamente gli balenò al pensiero una visione tormentosa. Margherita sposa di un uomo giovane e ricco. Margherita perduta eternamente per lui. Depose il gattino per terra e fuggì. Si chiuse nella sua cameretta, s'affacciò alla finestra. Gli pareva di soffocare. Non era stato mai geloso, né aveva mai pensato che Margherita potesse sposarsi così presto. No, no, pensava, stringendo e scuotendo la testa fra le mani. Non si deve sposare. Bisogna che aspetti finché... Ma perché dovrebbe aspettare? Io sono un bastardo, io sono il figlio di una donna perduta, io non ho altra missione che quella di cercare mia madre e di ritrarla dall'abisso del disonore. Margherita non può abbassarsi a me. Ma finché non avrò compiuto la mia missione, ho bisogno di lei come di un faro. Dopo posso morire contento. E non pensava che la sua missione poteva prolungarsi indeterminatamente e senza esito. E l'idea che rinunziando alla sua missione avrebbe potuto sperare nell'amore di Margherita gli sembrava mostruosa. Il pensiero di ritrovare sua madre cresceva e si sviluppava con lui, palpitava col suo cuore, vibrava coi suoi nervi, scorreva col suo sangue. Solo la morte poteva sradicarlo, questo pensiero, ed appunto alla morte di sua madre egli pensava quando desiderava che il loro incontro non si avverasse. Ma anche questa soluzione, o il desiderio di questa soluzione, gli sembrava una grande viltà. Più tardi, egli si domandò se era stata la sua natura sentimentale a creargli il pensiero della sua missione, o se questo pensiero aveva formato la sua natura sentimentale. Ma alla vigilia della sua partenza, egli accettava ancora le sue sensazioni e i suoi sentimenti senza analizzarli, ed accettandoli così, come da bambino, non faceva che meglio radicarli nella sua anima e nella sua carne, in modo che nessuna logica e nessun ragionamento cosciente avrebbero poi potuto strapparglieli. Passò una notte febbrile. Ah, era già lontano il tempo quando egli si contentava di veder Margherita nei piccoli viali dell'orto, senza badare al colore dei suoi capelli e alla forma del suo busto. Allora egli sognava cose fantastiche, rapimenti, incontri, fughe in luoghi misteriosi, magari nelle bianche pianure della luna. Ma se gli avessero dato la notizia delle nozze di lei, non avrebbe sofferto. Una volta aveva progettato di convincerla a seguirlo su una montagna. Là si avvelenavano d'un veleno che non deformava i cadaveri. Si stendevano sulle rocce fra l'edera e i fiori e morivano assieme. Ed in questo sogno non si era delineato neppure il desiderio di un bacio o di una stretta di mano. Ma dopo era venuto il sogno idilliaco della fontana di Fonni, il bacio, l'abbandono di Margherita e durante la sera della rappresentazione il profumo dei capelli di lei, lo splendore dei suoi occhi, il calore che pareva emanasse dalla sua persona fiorente, gli avevano dato ebbrezze ineffabili. Ed ora, ora soffriva al pensiero che ella potesse diventare da altri e nel sonno febbrile si affannava, sognando a scriverle una lettera disperata alla quale univa un sonetto, uno dei molti sonetti dialettali che egli aveva già composto per lei. Si svegliò, s'alzò ed aprì la finestra. L'alba gli parve vicina, il cielo era limpido, sopra un'aguglia nera dell'orthobene tremolava una stella rossastra, simile ad una fiammella su un candelabro di pietra. I galli cantavano rispondendosi l'un l'altro con una gara di gridi rauchi e parevano indispettiti reciprocamente di ciò che gridavano e tutti contro la luce che non arrivava. Anania guardava il cielo e sbadigliava. A un tratto un brivido di freddo lo investì dai piedi alla testa. Oddio, oddio, che accadeva in lui? Gli pareva che qualche cosa volesse staccargliesi dall'anima. Restare sotto quel cielo davanti al monte selvaggio, le cui creste servivano da candelabri alle stelle, come il viandante oppresso da un carico troppo grave vuol liberarsene in parte onde poter continuare la sua strada. Così egli sentiva il bisogno di lasciare un po' del suo segreto a Margherita. Chiuse la finestra e sedette davanti al tavolino, tremando e sbadigliando. «Che freddo!» disse a voce alta. Il sonetto che gli voleva mandare a Margherita era già copiato a stampatello su un foglio di carta rosea rigata trasversalmente di viola. Eccone la traduzione in prosa. Una bellissima Margherita cresceva in un verde prato. Tutti i fiori la ammiravano, ma specialmente un ranuncolo pallido ed umile, cresciutole accanto, moriva di amore per lei. Ed ecco, in una splendida giornata di primavera, una bellissima fanciulla andava a passeggiare nel prato, coglieva la margherita, la baciava, la poneva sul morbido seno, mentre senza avvedersene schiacciava l'infelice ranuncolo che, d'altronde, privato dell'adorata vicina, si sentiva beato di morire. Rileggendo i versi, il poeta provò una tristezza dispettosa. Vedeva al posto della simbolica fanciulla un capitano dei carabinieri dai baffi provocanti. Ripiegò il foglio, ma restò a lungo indeciso se doveva chiuderlo o no nella busta. Che avrebbe pensato Margherita? Avrebbe ricevuto lei il sonetto? Sì, perché quando il postino batteva al portone tre colpi terribili che parevano picchiati dalla ferrea mano del destino, Margherita correva lei a ricevere la posta. Bisognava però che ella fosse in casa nelle ore in cui passava il postino, cioè verso mezzogiorno e a sera. A mezzogiorno ella certamente era in casa, occorreva dunque impostare subito il sonetto. Un'agitazione febbrile invase Anania, senza esitare oltre uscì e camminò come un sonnambulo per le straducole buie e deserte. Dietro i muri dei cortili, nelle rozze tettoie delle case paesane, i galli continuavano i loro canti dispettosi. L'aria umida odorava di stoppia. Una povera infornatrice di pane d'orzo che tornava dal compiere il suo faticoso mestiere attraversò una viuzza. Il passo di due alti carabinieri risuonò sinistramente sul lastrico del corso, poi più nessuno, più nulla. Anania rasentava i muri, pauroso d'essere riconosciuto nonostante il buio, e appena impostata la lettera si mise a correre. Ma non poté rientrare in casa. Gli pareva di soffocare, aveva bisogno d'aria, di immensità. Scese verso lo stradale di Orosei, risalì il Ciglione e solo quando si trovò ai piedi dell'Ortobene respirò, aprendo le narici come un puledro sfuggito al laccio. Avrebbe voluto gridare di gioia e di spasimo. Albeggiava. Tenui veli azzurrognoli coprivano le grandi valli umide, le ultime stelle svanivano, non sapeva perché. Anania ripeteva i versi, care stelle dell'orsa, io non credea. E cercava di ricacciare da sé il pensiero di ciò che aveva fatto mentre se ne sentiva felice fino allo spasimo. Prese a salire l'ortobene, strappando fronde, ciuffi d'erba, lanciando pietre e ridendo, pareva pazzo. I cespugli odoravano, il cielo dietro l'enorme scoglio cerulo di Monte Albo diventava in color di ciclamino. Anania si fermò su una roccia, guardò l'immensa chiostra azzurra delle montagne lontane battute dal riflesso delicato dell'aurora e ridiventò pensieroso. Addio, addio, domani egli sarebbe al di là delle montagne e Margherita penserebbe invano all'ignoto ranuncolo che l'amava e che era lui. Ed ecco. Una cinzia cantò nel suo nido selvaggio, nel cuore d'un elce, e nella sua nota tremolò tutta la poesia del luogo solitario. Anania ricordò allora il canto di un altro uccellino entro l'umido fogliame di un castagno, in una lontana mattina d'autunno, lassù, lassù, in una di quelle montagne dell'orizzonte, e rivide un bimbo che scendeva lieto la china, ignaro del proprio triste destino. Anche adesso, pensò rattristandosi. Anche adesso sono lieto di partire e chissà invece che cosa mi aspetta. Rientrò a casa, pallido e triste. Ma dove sei stato, Galanumeu? Perché sei uscito prima dell'alba? Chiese zia Tatana. Datemi il caffè, disse egli aspro. Ecco il caffè, ma che cos'hai, cuoricino amato? Sei pallido. Rimettiti, riprendi colore prima di recarti dal padrino. Come? Scuoti il capo? Non andrai stamattina dal padrino? Cosa guardi? C'è qualche formica nel caffè? Egli guardava fisso la piccola scodella rossa filettata d'oro che serviva esclusivamente per lui. Addio, piccola scodella. Ancora domani e poi addio. Le lacrime gli salivano agli occhi. Andrò più tardi dal padrino. Ora finisco di preparare la roba, disse piano piano come parlando alla scodella. E se non ci rivedessimo più? Chiese poi alla donna, se io dovessi morire prima del ritorno, e forse sarebbe meglio perché dobbiamo vivere a lungo, già che si deve morire, è meglio morire presto. Zia Tatana lo guardò, fece un segno di croce per aria e disse, tu hai fatto cattivi sogni stanotte, perché parli così, agnellino senza lana, ti fa male il capo? Oh, voi non capite niente, proruppe egli balzando in piedi. Entrò nella sua cameretta e cominciò a riporre in una piccola valigia i libri e gli oggetti più cari e di tanto in tanto volgeva gli occhi alla finestra aperta, nel cui sfondo si scorgeva un lembo di cielo autunnale che pareva una tela graziosamente dipinta, una pianura bianchiccia con un laghetto azzurro. Che avrebbe egli veduto dalla finestra della cameretta che l'aspettava a Cagliari? Il mare! Il mare vero, le lontananze infinite dell'acqua azzurra sotto le infinite lontananze del cielo azzurro, tutto quell'azzurro veduto e desiderato. Lo rasserenò, si pentì d'aver contrastato zia Tatana. Ma che poteva farci? Sì, egli sentiva d'essere ingrato, ma i nervi sono nervi e non si può loro comandare. Però egli non vuole essere completamente ingrato, no? Lascia la valigia, i libri, le scatole, si precipita in cucina dove la buona donna scopa con aria tra melanconica e filosofica, forse pensando alle parole funebri dell'agnellino senza lana. Le va sopra, stringe lei e la scopa in uno stesso abbraccio e le trascina in un giro vorticoso di ballo. Ah, cattiva lana, che cosa c'è? Grida la vecchia, palpitando di gioia, ma sul più bello Anania scappa, correndo e imitando lo sbuffare del treno. Chiusa la valigia, egli andò a congedarsi dai vicini di casa, cominciando da Maestro Pane. La bottega del vecchio falegname, di solito piena di gente, era deserta e lo studente dovette attendere alquanto, seduto sullo scalino interno della porta, coi piedi fra gli abbondanti trucioli che coprivano il pavimento. Un leggero soffio di vento entrava per la porta, agitando le grandi ragnatele del tetto, cosparse di fili di segatura. Finalmente Maestro Pane arrivò, indossava una vecchia tunica da soldato, della quale curava molto i bottoni lucidissimi, e sorrise con infantile compiacenza quando Anania gli disse che sembrava un generale. «Ho anche il chepì», disse con serietà. «Vorrei metterlo, ma i ragazzi ridono. E così tu parti, caro bambino. Dio ti accompagni e ti aiuti. Io non ho niente da regalarti». «Oh, ma vi pare, Maestro Pane?» Il cuore non manca, ma il cuore non basta. Ebbene, io ti farò una scrivania quando sarai dottore. Ho già il modello, vedi? Cercò un catalogo di mobili gelosamente nascosto sotto il banco e fece vedere allo studente una splendida scrivania a colonnine e trafori. Ti pare impossibile? Disse, risentito, accorgendosi che Anania sorrideva. Tu non conosci, Maestro Pane. Io non ho mai lavorato mobili preziosi e fini perché non avevo fondi, ma sarei buono. Oh, lo credo, maestro Pa. Ed io, quando sarò dottore ricco, vi farò eseguire tutti i mobili del mio palazzo. Davvero? E quanti anni ci vorranno ancora? Chi lo sa, 10, 15? Ah, troppo. Sarò in cielo allora, nella bottega di San Giuseppe Glorioso. Nonostante lo scherzo, si fece devotamente il segno della croce. E dimmi, riprese fissando una pagina del catalogo. Cosa vuol dire mobili alla Luigi decimo quinto? Era un re, cominciò Anania. Questo lo so, rispose vivacemente Maestro Pane con un malizioso sorriso sulla gran bocca sdentata. Era un re al quale piacevano le ragazzine. Maestro Pane, gridò Anania strabiliato, come sapete ciò? Il vecchietto cominciò a ridere, togliendosi la giubba e piegandola accuratamente. Ebbene, disse fingendo un ingenuo stupore per non turbare oltre l'innocenza di Anania. Perché siamo ignoranti, non dobbiamo saper nulla? A quel re piaceva giocare e divertirsi coi bambini, come alla regina Ester piaceva andare per i campi a cogliere spighe e a Vittorio Emanuele zappare l'orto. Ma Anania la sapeva più lunga di Maestro Pane e chiese anche lui con finta ingenuità: Avete dunque studiato voi? Io? Ah, avrei voluto, ma non ho potuto. Fiore mio, non tutti nascono sotto una buona stella come te. E dunque come sapete queste storie? Beh, si raccontano, diavolo. La storia della regina Ester l'ho udita da tua madre e quella del re da Pera Sagattu. Anania andò via inorridito, ricordando una storiella raccontata molti anni prima da Nanna, una sera d'inverno nel Molino delle Olive. Bussò alla porticina chiusa di Nanna, ma il vecchio pazzo, seduto su una pietra, disse che la donna non c'era. Aspetto anch'io, aggiunse, perché Gesù Cristo ieri sera mi disse che ha bisogno di una serva. E dove l'avete incontrato? Nel viottolo, laggiù, indicò il pazzo. Aveva un cappotto lungo e le scarpe rotte. Ebbene, perché tu non mi dai un paio di scarpe vecchie, Anania Tonzu? Oh, vi starebbero strette, disse lo studente guardandosi i piedi. E perché non vai scalzo? Che una palla ti trapassi la milza? Chiese minaccioso il pazzo, corrugando le irte sopracciglia grigie. Addio, disse Anania senza rispondere alla minacciosa domanda. Io parto per gli studi. Gli occhioni azzurri del vecchio presero un'espressione maliziosa. Tu vai ad Iglesias? No, a Cagliari. Ad Iglesias ci sono i vampiri e le faine. Addio, dunque, toccami la mano, così. Bravo, non aver paura, non ti mangio. E tua madre dove si trova ora? Addio, addio, state bene, disse Anania, ritirando la sua piccola mano dalla manaccia dura del pazzo. Anch'io devo partire, annunziò il vecchio. Andrò in un luogo dove si mangiano sempre cose buone: fave, lardo, lenticchie, viscere di pecora. Buon provi faccia. Gridò il pazzo quando lo studente si fu allontanato. Bada alle correggie gialle e scrivimi. Anania si congedò dagli altri vicini ed anche dalla donna mendicante che lo ricevette in una cameretta discretamente pulita e gli offrì una tazza di buonissimo caffè. Tu andrai anche da Rebecca? Gli domandò con invidia. Quella stupida si è data a mendicare adesso. Non è una vergogna, una ragazza come lei, diglielo dunque. Ma è piegata, può appena camminare. No, è guarita. Cosa guardi lassù? È una falce da mietitore. Perché sta appesa sulla porta? Per il vampiro, che quando penetra di notte nella camera si ferma a contare i denti della falce e siccome non arriva che a 7 ricomincia sempre. E così arriva l'alba e appena vede la luce il vampiro fugge. Tu ridi, eppure è vero, che Dio ti benedica, disse poi la mendicante accompagnandolo fin sulla strada. Buon viaggio e fa onore al vicinato. Anania entrò da Rebecca e la pareva ancora una bambina. Sebbene avesse più di 20 anni, livida, calva, accoccolata nel suo buco nero come una fiera malata nella sua tana. Vedendo lo studente, arrossì e tutta tremante gli offrì su un primitivo vassoio di sughero un grappolo d'uva nera. Lo prenda dunque, balbettò, non ho altro. E dammi dunque del tuo, esclamò Anania, strappando un acido dal grappolo. Oh, non ne sono degna, io non sono Margherita Carboni, sono una povera immondezza, rispose animandosi la fanciulla. Lo prenda dunque questo grappolo, è pulito, io non l'ho neppure toccato. Me lo portò zio Pera Sagatto. Zio Pera? Chiese Anania, ricordando con disgusto la storiella di Maestro Pane. Sì, poveretto, egli si ricorda sempre di me e tutti i giorni mi porta qualche cosa. Il mese scorso sono stata malata perché mi si sono riaperte le piaghe e zio Pera fece venire il medico e portò le medicine. Ah, egli fa per me ciò che farebbe mio padre se... Ma egli mi ha abbandonata. Basta, disse poi Rebecca, accorgendosi di aver toccato un tasto doloroso per Anania. Lei dunque non vuole il grappolo? È pulito però. E dallo qui. Ma dove lo metto? Aspetta. Lo avvolgo in questo giornale. Io dunque parto, sai? Vado a Cagliari per gli studi. Arrivederci, sta bene e curati. Addio, disse ella con gli occhi pieni di lagrime. Anch'io vorrei partire. Anania uscì e vedendo sulla porta della bettola la bella Agata, si avvicinò per congedarsi anche da lei. Appena lo scorse, la ragazza cominciò a sorridergli, con gli occhioni lucenti, a fargli segni d'addio con la mano. Tu facevi all'amore con quel mucchietto di marcia? Chiese accennando Rebecca affacciatasi alla porta. Allontanati, che puzzi orribilmente. Anania fece un gesto di raccapriccio, pensando istintivamente a Margherita. Eppure, proseguì l'altra ridendo e guardandolo languidamente, e sei gelosa di me? Osserva come guarda. Stupida. Ella pensa sempre a te perché l'ultima notte dell'anno scorso, quando sorteggiamo gli innamorati, il tuo nome venne fuori assieme col suo. Lo so, dunque, finiscila, disse egli infastidito. Io parto domani. Addio. Desideri qualche cosa? Oh, prendimi con te. Ella propose con ardore. Un pastore che aveva finito di sorseggiare un calice d'acqua vite uscì dalla bettola e pizzicò la fanciulla. Sas manos sicas, lepre pelata, gridò Agata. Poi attirò Anania entro la bettola e gli chiese che cosa desiderava bere. Niente, niente, addio. Ma Agata gli versò un calice di vino bianco e mentre gli beveva, ella, appoggiatasi languidamente al banco, guardava fuori e diceva: Anch'io verrò presto a Cagliari, appena avrò un costume nuovo e i bottoni d'oro per la camicia. Verrò a Cagliari e cercherò servizio, così ci rivedremo. Oh, diavolo, ecco che viene Antonino, egli mi vuole in sposa ed è molto geloso di te. Ah, gioiello mio, addio, vattene! E dicendo così, si gettò su lui con uno slancio felino e lo baciò sulla bocca. Poi lo spinse ad uscire ed egli andò via, sbalordito e turbato, e incontrando Antonino capì finalmente perché costui lo guardava con odio. Per qualche minuto camminò senza vedersi dove andava. Gli pareva d'aver baciato Margherita e il desiderio di vederla lo rendeva fremente. Ah! Gridò un tratto trovandosi fra le braccia di una donna. Figliolino del mio cuore, disse Nanna, piangendo comicamente e porgendogli un involtino. Tu dunque parti? Il Signore ti accompagni e ti benedica, come benedice la spiga del frumento. Noi ci rivedremo ancora, ma intanto, ecco, non rifiutare, sai, perché io ne morrei di dolore. Per impedire la morte di Nanna, egli prese l'involtino, poi trasalì, sentendo sulla sua guancia qualcosa di viscido e un pestilenziale soffio di acquavite. Ebbene, balbettò Nanna dopo averlo baciato, non ho potuto resistere. Pulisciti la guancia. No, essa non deve restare macchiata per i baci odorosi come garofani delle fanciulle d'oro che ti raccatteranno come un confetto. Anania non protestò, ma quel terribile urto con la realtà lo rimise in equilibrio, cancellando la sensazione ardente del bacio d'Agata. Rientrato a casa, svolse l'involtino e trovò 13 soldi. Che cominciò a far risuonare tra le mani. Sei stato dal padrino? Chiese zia Tatana. Andrò fra poco, dopo mangiato. Ma appena mangiato, uscì nel cortile e si sdraiò sopra una stuoia, sotto il sambuco.